parlo con la zanzara. Ciao belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente male, cazzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Che non hanno nulla da fare, anzi senatori che non hanno un cazzo da fare. La senatrice del Partito Democratico Manuela Granaiola ha proposto un garante, vi giuro, popolo della radio, ascoltatemi perché è incredibile come si possa perdere tempo. La senatrice del Partito Democratico Manuela Granaiola è una piccola cosa, ma qualche volta le piccole cose segnalano quanto sono inutili la maggior parte dei parlamentari. La senatrice del Partito Democratico Manuela Granaiola che cosa vuole fare? Vuole proporre un garante sparso in tutte le regioni d'Italia, un garante per i diritti degli animali dopo la vicenda di Danica. Un'altra notizia ci viene da Napoli, dove questa volta un uomo senza casco non solo non si è fermato all'alto della polizia, ma poi cosa ha fatto? Ha raggiunto gli agenti e li ha presi a calci e pugni. Eppure c'è qualcuno che ancora dice che in quel rione Traiano, credo che sia un parente dei Bifolco, non c'è criminalità. A Rione Traiano non c'è criminalità. Lei sta dicendo che il quartiere Traiano non ha nessun problema di sicurezza, è così? Di criminalità. Ma problemi di sicurezza non mi risulta non che qualcuno risulta. Sia passato. E problemi per di criminalità? Ma assolutissimamente non si è mai verificato un caso tranne questo. Questo era ieri durante la trasmissione condotta da Del Debbio, avete riconosciuto la voce, no? No, assolutamente non c'è stato nessun problema. Non ci sono nemmeno le cosche. Se lei conosceva qualcuno, qualche delinquente che lei ne poteva denominare, perché a noi da 40 anni qua, come grande cosche mafiose e camorriste, non ce ne sono mai state di un certo spicco come le sta facendo sentire a tutta Italia. Cioè, secondo questo Muro, cugino dei Bifolco, intervistato alla, come si chiama, Quinta Colonna, caro Parenzo, poi adesso dirò dove ti trovi. Lo dico io. Allora, questo signore che si chiama Muro, non ci sarebbero né cosche, poi siamo noi che ce l'abbiamo con Napoli. Non ci sono né cosche né criminalità, nulla, niente. Cosa incredibile, dai. Da Edimburgo, da un albergo che ospita matrimoni, ricevimenti se non sbaglio, ma anche funerali, perché c'è scritto così: ospitiamo funerali. La cosa è meravigliosa. Da un albergo che ospita anche funerali, David Parenzo. Adesso non augurate subito a Parenzo i funerali, però è vero, sei in un albergo in cui ci sono pure i funerali. Sicuramente ti capiterà in questi giorni di vedere è la prima notizia che io ti voglio dare da qua. È la prima notizia. La seconda è che siamo in fase di spending review, nella stanza non c'è il telefono fisso. Cioè, tu mi vorrai dire che Mediaset, cioè Berlusconi, questo bisogna dirlo. Mediaset. Berlusconi ti ha mandato in quel di Edimburgo a seguire questo referendum che dovrebbe dare l'indipendenza, o forse no, alla Scozia, e ti ha pagato una minchia di stanza di albergo, non so dove, a Edimburgo, dove non c'è il telefono, ma il cesso c'è? No, il bagno c'è. O è in comune. Il bagno c'è. Sono stato io a sceglierlo perché ho applicato la spending review a questa azienda. Vergogna. Pagate una stanza, Mediaset, vergogna. Pagate una stanza apparenza dove c'è un telefono. Vergogna. Il problema sono i funerali. Ma se ti sei lamentato fino all'altro giorno, fino a pochi minuti fa con me. Sì, hai detto. Ma hai detto una vergogna, uno scandalo. Che schifo. Ma come no? Ma quale schifo? Ma sì, l'hai detto, è uno schifo. Giuro, come no? Che non mi sono mai. Ma guarda, stai dicendo una menzogna, perché io giuro che non ho mai detto una duda. Ho provato io le cose, perché essendo collaboratore esterno, sì, ho provato io. Ma adesso non entrare nei miti, devo insegnare tutto. Stupida, come si fa la radio, tutto tutto ti devo insegnare. Non scendere nei dettagli, non è importante. Non è importante. La cosa divertente. È importante, sì, perché si dice una cosa falsa. Mamma mia, falso, verosimile, finto. Mamma, ti devo insegnare tutto, non c'è niente da fare. Sì, levate il microfono. Allora, devo dire però che Bendola ha detto una cosa giusta, che sulla questione dei diritti degli omosessuali, eccetera, eccetera, c'è un cazzeggio universale, cioè non si scende nel dettaglio. Se uno vuole fare una cosa, il governo Renzi, una legge sul matrimonio, la fa, invece si cazzeggia. Siamo un paese in cui la fecondazione assistita, il testamento biologico, le coppie di fatto sono grandi questioni che appartengono al cazzeggio universale, alle promesse senza mai un punto di ricaduta nella realtà. Beh, questo devo dire, per chi è favorevole a quelle robe lì, è evidente che c'ha ragione lui, però, cioè, qui siamo sempre regole, regolucce, cose, promesse, disegni di legge, eccetera, e non si fa mai una mazza. Giorni di Renzi, parleremo più avanti, ma in fondo chi se ne frega. Abbiamo in collegamento, caro Parenzo. Buon anno, lo sai dov'è Parenzo? Secondo me è in Scozia, perché vuole fare qualcosa di particolare, invece va a rovinare una grande festa. Cioè, dici che porta sfiga agli scozzesi? Ma sì, ma bisogna buttarlo subito via. Fuori. Chiamo Sean Connery e gli dico fuori. Ma chiama qualche amico tuo degli indipendentisti scozzesi. Guarda che ho fatto un po' oggi pomeriggio e ho chiesto if they know Lega Nord Party. Mi hanno guardato come se fossi un pazzo. Ma smettila, dai. Voglio vedere Parenzo con... Farò il collegamento giovedì sera con Matteo Salvini, che dovrebbe. E io mi metterò la gonnellina, il kilt. Ma guarda che se non passa il referendum ti pigliano a calci nel sedere, Ma chi? Sì. Senti, Buonanno, se si presentano nel tuo comune due che vogliono registrare le nozze gay, tu che cosa fai? Gli dico, forse è meglio che vi fate un TSO. C'è un trattamento sanitario obbligatorio. Cioè, addirittura. Cioè, no, li sbatti fuori. Se bussano due, sì. Toc, toc, toc. Come si dice? Com'è fa Parenzo? Toc, toc, toc, toc. Sindaco Buonanno, noi siamo gay. Siamo residenti a. Ci saranno i gay a Barallo? A Borgosesia. Ci saranno i froci o no? Sì, ci sono. Ci sono? Adesso ce n'è uno in più in Scozia. Ma qua? Sì, ci sono. Chi c'è in più in Scozia? Parenzo. No, vabbè, ma che c'è? A parte Parenzo non è gay, poi mica abita a Borgosesia. Cioè, ma no, quanti gay ci sono a Borgosesia? Scusami. Non lo so, ce ne sarà qualche decina. Qualche decina. Cioè, da quando ci sei tu ce ne sono di meno, no? No, può darsi che siano aumentati. Senti, la... perché? Allora, io voglio capire una cosa. Schedi. Bisognerebbe schedarli o no? Ma io sì, li schederei. Cioè, gli farei in modo che, insomma, che visto che hanno questa voglia di pubblicizzare il loro amore, il loro sì, la loro unione, va bene, allora segniamoli su un registro. E perché non gli metti anche un triangolo viola, obblighi a girare per la città con un triangolo viola, come facevano in Sono loro che vogliono fare così, sono loro che vogliono immancabilmente rendersi pubblici in tutte le maniere, appena li sfiori fanno versi, sembrano unti dal signore. Tu schederesti gli omosessuali, tu onorevole Bonanno schederesti gli omosessuali? Io ho detto un'altra cosa, ho detto che se vogliono, diciamo così, sancire pubblicamente, vogliono iscriversi a un registro, li scrivi direttamente. Però io voglio capire una cosa. Li scrivo al registro. Se due si presentano e bussano, fanno toc toc toc, sì. Sindaco, noi ci vogliamo che il nostro matrimonio, ci siamo sposati in Canada, in Gran Bretagna, vogliamo che questo matrimonio venga riconosciuto dal suo comune, dal nostro comune. Tu gli dici no, andatevi a far ricoverare, mi sembra di capire. Li mandi via dalla stanza? No, che fai? Ma no. Beh sì, li mandi via, dai, su, li mandi via. Gli offro una banana, magari. Se sono gentile, io li faccio accomodare, gli offro una banana, magari vogliono un'insalata di finocchi, non lo so. Come mai, Parenzo? Sei davvero una persona, una brutta persona proprio, guarda. Va bene. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Cioè ragazzi, ma vi pare possibile che un ministro della salute, il ministro della salute Beatrice Lorenzin, caro Parenzo, che tu conosci bene, non te ne frega niente perché sei lì in Scozia in un posto dove potrebbero fare un funerale da un momento all'altro, nell'albergo dove sei, che Mediaset ti ha dato, dove non c'è il telefono e fanno i funerali e non c'è il telefono, vabbè, non c'è problema. Allora, non te ne frega niente, però alla rivista Tutto, il settimanale Tutto, già ministro, vabbè, lasciamo perdere, dà i suoi consigli per riconoscere e combattere le smagliature, il ministro della salute. Salute. Aspetta, no. Allora, che cosa bisogna fare per riconoscere e combattere le smagliature? Il ministro della salute, uno stile di vita sano, niente alcol e fumo e un'alimentazione equilibrata associata all'attività fisica. Ma ragazzi, è una cosa pazzesca. Cioè, anche in America. Ma di una banalità spaventosa. Ma uno stile di vita sano, niente alcol, un'alimentazione equilibrata associata all'attività fisica. Ma questo si potrebbe dire di chiunque, per qualsiasi cosa, non per smagliature, anche per campare bene in generale. Di una ovvietà spaventosa. La dieta deve essere equilibrata, ricca di acqua, proteine e antiossidanti. Prima di acquistare e utilizzare un prodotto è sempre bene. Siamo sempre a parola del ministro, eh? Prima di acquistare e utilizzare un prodotto è sempre bene chiedere consiglio al vostro medico curante, che saprà scegliere quello più adatto per voi. Ah dai, su. Allora, mi ha colpito molto, Buonanno, una roba che viene dal Belgio, dove uno stupratore seriale ha chiesto la dolce morte. C'è uno che è stato condannato per non so quanti anni, ha chiesto la dolce morte, gli è stata concessa in Olanda, credo in Belgio, una cosa del genere. Secondo te è un segno di civiltà? Secondo me se la chiede chi ha commesso reati pesanti come questo signore, se lui la chiede, perché no? Cioè, se uno chiede, cioè questo qua è un signore che dice io non posso, sono un mostro, voglio morire, no? Cioè, e gli hanno detto sì, va bene, dovrebbe vivere, aveva ucciso una 19enne e i giudici hanno autorizzato l'eutanasia, capito? Sì. Belgio. Io sono favorevole. Cioè, anche in Italia bisogna introdurre questo principio. Se uno sta in carcere e dice io voglio essere ammazzato perché fuori continua a stuprare, ammazziamolo pure. Beh, certo, intanto si elimina un pericolo e poi se si va sull'aspetto venale liberi un posto e costa meno, perché i detenuti costano cari. Cioè, secondo te, per esempio, gli stupratori seriali andrebbero castrati, già lo sappiamo, tu sei favorevole alla castrazione, eccetera. Vabbè, io sono proprio contro la pedofilia, penso che sia uno dei reati più tutti siamo contro la pedofilia, cioè, sì. Nei confronti di questi stupratori seriali che bisogna fare? La pena di morte sarebbe la cosa numero migliore. Però ovviamente gli stati moderni dicono che queste cose non si devono più fare, anche se poi gli Stati Uniti, la Cina li fanno ancora. Personalmente io sarei per la pena di morte. Cioè, se io dovessi pensare sinceramente che capitasse una cosa del genere a mio figlio, se non lo ammazza lo Stato, cerco di ammazzarlo io. Parenzo, ma i funerali quando li fanno là? No, non hai capito la questione. Cioè, è la curiosità di questo straordinario, perché in un angolo di paradiso davanti a questo parco di Edimburgo, è che questo qui fanno, aspetta che esco, lo leggo bene, weddings, cioè matrimoni. Sì, matrimoni, sì. Qui va bene, d'accordo. Vabbè, d'accordo, matrimoni. Conferenze, meglio ancora, e funerali però. C'è scritto luxury with economy. La parola chiave è with economy, perché c'è luxury... Ma certo, ma sono paesi civili dove anche la, i funerali vengono, come dire, pubblicizzati. Cioè sono paesi civilissimi. Ma che ha fatto questo? È caduto la linea di Parenzo, naturalmente. No, cioè no, non... è arrivato uno degli indipendentisti e gli ha tirato una bastonata in testa. Senti, ma c'è questo video pazzesco. Tu sei stato intervistato alla fine della televisione russa in cui dici I don't like the homosexual. Beh, stai migliorando. Sta migliorando l'inglese, eh? In the street. In the street, com'è? I don't like, ripeti un po', I don't like the homosexual in the street. Homosexual, non homosexual, Gianluca. Homosexual. Insomma, io, cioè, non è che abbiamo tutti la stessa pronuncia, Come hai fatto? I don't like the homosexual in the street. In the street. Ma invece you like homosexual dove? È andato in onda in una delle trasmissioni più popolari. Beh, sì, l'abbiamo detto, si chiamano Uomini Veri, sì, uomini. Ma perché hanno intervistato proprio te, Uomini Veri? Perché ti considerano un vero uomo. Perché sono uno dei pochi che dice quello che pensa sulla questione della Russia, e stamattina anche, chi vuol vederlo sulle mie pagine Facebook o Twitter, ho fatto un intervento difendendo la Russia dalle sanzioni e dicendo che in Europa ci sono gli europeisti, poi ci sono gli euroscettici, ma in realtà sono tutti europirla, perché ci facciamo del male da soli con le sanzioni, ma questa abbiamo già dato. Senti, ma io non ho capito, l'immagine, c'è un'immagine chiave, Parenzo, di questi giorni, no? Di questa vicenda di Bologna, che sta succedendo? L'acqua, le cose, che sta facendo Parenzo? Io non capisco veramente, che stai facendo? Ah no, buon anno, sta bevendo. Ma tu come ci arrivi a Strasburgo in macchina, Gianlu? Questa volta sono venuto in macchina perché ci sono gli scioperi della Air France. In macchina da Milano? Da quanto ci metti da lì? Ci metti 6 ore e mezza. Mamma mia, che fatica. E come no? Fai, scusami buon anno, come fai per portarti dietro il tendone e gli animali? Cioè, il tendone lo lasci lì a Strasburgo o ogni volta te lo porti? No, ho fatto così questa volta. Siccome l'asino c'era già, che era in Scozia, cioè eri tu, non l'ho portato, hai capito? Quindi avevo perché poca in genere roba. L'asino c'era già, caravan, no? Cioè il circo buon anno, quando si sposta in genere ha tanti caravan, no? Perché poi c'è i giocolieri, i pagliacci, i leoni, la foca lesbica, cioè tante cose, no? Parenzo, tu sei invece in Scozia a spese di Berlusconi, bravo, così lui non può comprare i giocatori del Milan per mantenere te. Vergognati, senti una cosa, buon anno, io dico, c'è una foto di questi giorni con un senatore del Partito Democratico, lo giudice che bacia con la carrozzina insieme al bambino davanti al comune, bacia il suo compagno, questa foto come la vedi, che effetto ti fa questa foto? Mi fa schifo. Addirittura? Sì, no, come ho già detto tante volte. Cioè lo giudice, idea. Senatore, con un suo compagno, si bacia con una carrozzina, una foto meravigliosa di grande affetto, o no? Ti fa schifo? Ho capito, però mi fa schifo, scusa, a me non piace, cosa devo dire, mi dà questa sensazione. Vabbè. Poi ripeto, ognuno è libero di fare quello che meglio crede, però per quanto mi riguarda in un ambito pubblico eviterei. In the street, No, in the street. Ciao. La Zanzara. Dei 5 Stelle, abbiamo scoperto l'ISI, cioè il califfato, gli estremisti islamici, insomma lo sapete, quella roba lì, abbiamo scoperto l'ISI grazie a lui, cioè grazie alla polemica che lui ha sollevato qualche settimana fa. Capito? Fermatelo. Fermatelo. È una cosa pazzesca, dai, su. Cioè, Di Battista che è completamente scomparso dal dibattito pubblico, scomparso. Cioè, non si vede all'orizzonte nulla, zero. Come tutti i grillini, adesso ne ospiteremo qualcuno fra poco, ma insomma. Ci siamo messi male. Iniziate a parlare di questo solo perché io ho scritto quel post, se no la stampa non ne parlava, anche questo c'è da dire. In Italia nessuno sapeva che cosa fosse l'ISIS o perché ci fossero delle... Prima che lei scrivesse questo post? Non se ne parlava mai. Ma dai, su, ma ragazzi, ma ti rendi conto o no? C'è il dibattito in Italia sull'ISIS, come lo chiama lui o quello che diavolo è, cioè è nato grazie a Di Battista, dai! Dovremmo anche dirgli grazie. Secondo Salvini invece bisogna censire gli imam. Censire gli imam in Italia, perché a parte che sono già censiti gli imam, credo. Censire tutti i luoghi di predicazione in questo momento, fare in modo che la predicazione sia fatta in lingua italiana, avere un albo di questi imam, come sappiamo chi è il parroco della mia parrocchia a Milano. Io vorrei sapere chi è colui che predica di fianco alla mia parrocchia, che cosa dice, che cosa invita, e al minimo accenno a un episodio, un invito alla violenza, chiudere, sigillare, rispedire a casa. Ragazzi, voglio ringraziare tutto il popolo della Zanzara che ci ha fatto vincere il premio come migliore trasmissione radiofonica nel voto popolare delle cuffie d'oro. Siamo stati battuti, è vero, sono stato battuto da padre Fanzaga, che c'è stata una specie di, no, per tua gioia, Parenzo, siamo stati, no, sono stato battuto, battuto da... nella persona, sì. La trasmissione in sé è stata premiata perché sono riuscito io a convogliare parte del voto cattolico. Ma che cazzo dici, dai, sì. Su, dai. Aspetta che devo anche rispondere al telefono qui. Hello? Yes? No, we have no room, sorry. Thank you. Scusami. Ma come hai risposto al posto, al posto del portiere dell'albergo? Beh, cioè sì, del receptionist, là, come diavolo è? Ha detto, sì, che non ci sono stanze. Non voglio avere nessuno, no, non, voglio avere pazzo. Non voglio avere gente tra i coglioni. Oh, la contentezza di Don Livio Fanzaga, che pare non voglia venire a Trieste sabato per la grande premiazione delle cuffie d'oro. Però è veramente un codardo questo signore, padre Livio Fanzaga, è veramente un codardo. Si presenti in pubblico, si confronti in pubblico, venga lì ad essere osannato, premiato, dopo aver fatto tutto questo cancan, dopo aver fatto tutta questa campagna. Tu che sei il cantore, tu che sei il paladino delle coppie regolari, della famiglia tradizionale, eccetera. Vieni a ricevere il giusto premio. Invece pare che non venga, se la fa sotto. Livio Fanzaga, vieni a confrontarti con la gente della radio, vieni a confrontarti a viso aperto. Non ti rinchiudere in quello studio radiofonico e basta. Vieni a confrontarti, che ti abbracciamo, non ti sculacciamo, non ti preoccupare, non ti trattiamo male a Trieste. Come già vi avevo detto ieri, sono terminate con la gara delle cuffie d'oro, con le due votazioni, quella riguardante Radio Maria e quella riguardante Padre Livio, sono terminate con una ultra stra vittoria, insomma, con oltre il 50% delle preferenze, 52% Radio Maria, 48% di preferenze per quel tizio lì che si chiama Padre Livio. Palle questi di Radio Padania che vogliono sapere quanto guadagnano, che coglioni, a Pellegrin, ma che ti frega quanto guadagno, che cosa ti importa, guadagnerò 200, 220, 230 a seconda degli anni, su 230, 240, 250, non lo so, dipende da quanto lavoro, da quanto mi vogliono, ma magari non dura questa roba qui, Pellegrin, su, ma che ti importa, cosa ti importa, vuoi esattamente la mia, ti dirò esattamente quando adesso il commercialista me lo comunicherà, esattamente il lordo della mia retribuzione, così siamo tutti contenti, Pellegrin, Radio Padania, chi lo vuole sapere, dai. Buon lavoro, Cosimo, ciao. quando il capo, il Trucido, Cruciani, ci dirà quanti soldi prende, visto che prende soldi nostri, perché i soldi di Confindustria sono soldi nostri, è giusto, è corretto, corretto, che si sappia, ma Cruciani non vuol saperne. E adesso i titoli per TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi presenta il programma dei mille giorni e l'ultima chance per il paese. Voto anticipato solo se il Parlamento non fa le riforme. Pronti al decreto sul lavoro. Bocciatura delle opposizioni. Brunetta, aria fritta al discorso del Premier. 5 Stelle, inutile pagliacciata. La Lega inneggia l'indipendenza del Veneto. In corso in Parlamento una nuova votazione per eleggere i due giudici della Corte Costituzionale. Forza Italia e PD confermano i candidati Bruno e Violante. L'aviazione militare americana bombarda pochi chilometri da Baghdad in appoggio alle forze irachene. Gli Stati Uniti pronti a colpire anche in Siria. A soli 2 giorni dal referendum sull'indipendenza in Scozia, il sì e il no quasi testa a testa nei sondaggi. L'appello del premier britannico, in gioco il futuro del paese. 2 giovani milanesi precipitano dall'ultimo piano di un palazzo. L'ipotesi è che lui abbia trascinato la ragazza nel vuoto. In passato ha già tentato il suicidio. Carolina Kostner convocata dalla procura antidoping sul caso dell'ex fidanzato Schwarzer. Rischia 4 anni di sospensione per favoreggiamento. Buonasera Luca. Buonasera Cruciani. Senta, io volevo solo intervenire per dire a Bonanno di smetterla di sparare cazzate come le ha sparate da come le continua a sparare. Perché lui, che ha detto? Non ho capito. Che ha detto? Per una semplice ragione, perché i dirigenti leghisti, soprattutto da qualche anno, continuano a predicare bene e a razzolare male. Io li conosco bene perché ero il presidente del consiglio della provincia di Como leghista. Me ne sono andato disgustato perché loro continuano a predicare anche correttamente certe cose, poi però quando arrivano sulle cadreghe sono i primi che sfruttano tutto quello che possono. Lei per esempio ha un esempio, veda Cotta, no? Le faccio quell'esempio lì per capirci, le sue mutande verdi. A Cotta io l'ho visto nel 2006 ad un incontro pubblico a Busto Arsizio. Lui non sapeva neanche che cos'era la Regio Insubrica. Lui che era di Novara. Scusi, Luca, adesso al di là di questo, lei sta dicendo che i leghisti pensano solo alle poltrone, giusto? I leghisti dovrebbero pare che sulla poltrona ci sia meno cazzate per prendere voti e cominciare ad occuparsi di più dei veri problemi della gente. Vabbè. Perché ce ne fosse stato uno leghista, sentivo che parlavate di Europa. Allora, sono solo capaci di dire no alla Turchia in Europa, però a qualcuno gli è venuto in mente. Ma lei che c'è stato a fare con la Lega, scusi, fino adesso? Scusi? Non ho capito. Che cosa c'è stato a fare con la Lega fino adesso? Non ho capito. No, allora, Cruciani, io me ne sono andato nel 2009. Sono passati tanti anni, grazie. Antonio dalla provincia di Torino. Buonasera, Cruciani. Dimmi. Sì, dimmi. Volevo soltanto dare una conferma a una cosa che è stata detta ieri sera riguardo l'utilizzo della placenta nella produzione di cosmetici. Volevo confermare che effettivamente è vera questa cosa, non proprio la placenta, ma estratti di placenta. Va bene, grazie di questa informazione. Eravamo tutti lì che eravamo in attesa di una risposta su questa cosa qua. Lei ci sta dicendo che con gli estratti di placenta, non mi ricordo che cosa stavamo affrontando, quale discorso stavamo affrontando, con gli estratti di placenta si fanno anche dei cosmetici, giusto? Sì, assolutamente sì. Bene, assolutamente grazie, corretto. Grazie. Matteo Ancona, Matteo. Sì, ciao Giuseppe, un dimmi, saluto. Dimmi. Niente, io volevo intervenire sulla pubblicità delle patatine. Sì. Grazie. Fantastica, una delle più belle pubblicità degli ultimi 10 anni, secondo me. Ogni volta che l'ascolto mi fa impazzire. Allora? E niente, chiamavo per questo. Sì, cioè ti piace e la pubblicità delle patatine di Rocco Siffredi? Sì, mi fa impazzire. E perché ti fa impazzire? Perché non lo so, c'ha quel gusto un po' anni 80 che... C'è gente che si incazza perché dice che è una pubblicità sessista, eccetera. Ma io la trovo assolutamente il contrario. Vabbè. Una pubblicità che esalta le donne. Vabbè, Matteo, ciao, ciao. Ciao, mi fate ridere, siete troppo simpatici. No, io non uso mai testimonio, posso usare voi due per atti osceni, insomma. Per atti osceni in radio, non male. Imprese del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, produttore cinematografico. Presenta quello che sarà forse il nuovo stadio della Sampdoria, ma in realtà era un progetto vecchio, eh. Sentite. Questo è il progetto dello stadio dei sogni. È un sogno, ma come tutti i sogni belli, credo che tra un po' questo sindaco taglierà il nastro. Inizio i lavori, mi auguro prima che finisca il mandato, così poi ne farà un altro. Ma la cosa bella, che è un destino, che il sindaco di Genova si chiama Doria, per cui sarà ricordato negli ultimi 150 anni questo signore. E allora io spero, auspico che ti prendano un grande appuntamento, tirare fuori questo progetto e riportarlo in vita. Beh, il sindaco che si chiama Doria è fantastico, eh. Paga pantalone, secondo è lui. È pazzo comunque, dai. No, ma è numero uno, quale pazzo? Cioè, è l'unico elemento che mi dà un minimo di soddisfazione. Però che mi fa venire il sorriso. Un attimo, perché ho un ospite qui. Aspetta, fammi finire il viperetta. Ti prego. Pare che voglia pure registrare il simbolo viperetta. Cose pazzesche. Chi lo paga questo progetto e questo stadio? Pantalone! C'è sempre pantalone lo paga, perché questo qui non è un fatto chi lo paga. È chiaro che ci saranno dei finanziatori oltre me e il comune ci deve dare i terreni in concessione per 99 anni, perché lo stadio rimarrà ai genovesi, a Genova, e non è che ce lo portiamo a casa. Su questo non c'è dubbio, che non me lo portate a casa, caro Ferrero, non c'è dubbio. Senti, il luogo di entertainment, lo stadio, uno stadio sul mare. Ma sarà un luogo di incontro che non sarà soltanto un luogo di calcio, sarà un luogo di sport, un luogo di discipline sportive, di entertainment. Che dovrà essere tutti i 7 giorni, dovrà lavorare. Deve essere una grande attrazione e deve diventare il più grande stadio d'Europa, perché voi immaginate uno stadio sul mare, dai, parte veramente, l'inno sarà una rotonda sul mare, invece di una rotonda ci sarà uno stadio sul mare. Grazie Doria. Cioè, ma tu ti rendi conto, c'è lo stadio più grande d'Europa. Il luogo di entertainment. È un mito assoluto, dai. Renzo Piano ci dia una mano. Figuriamoci se Renzo Piano va a dare una mano per lo stadio della Sampdoria. Dal viperetta poi. Dai. Faccio un appello al grande Renzo Piano. Se ci viene a dare un occhio, avremo un percorso migliore e daremo un altro sapore a Genova. Se guardate, faremo i colori del Doria. C'è Parenzo, chi c'hai lì? Non ho capito. Matero, guarda, qui ho il concierge dell'albergo, salve, di Foggia Italian Radio, no? Anonimo. You vote yes on Tuesday, no? Yes. Il dice Scrucciani, Moschito. Okay. Hello. Sì, salve, buonasera. You are for independent, for the independence? Yes. Why? Scottish. Beh, l'Inghilterra è una roba brutta. Great Britain is rubbish, no? Britain is rubbish. Rubbish. What do you mean? No, I mean the Great Britain is rubbish, no? Great Britain is rubbish. No, I wouldn't say it's rubbish, no. No, no rubbish. Non è rubbish. No. No. va, arribassamelo, va, arribassame Parenzo, amico mio. David, riprendi sto telefono, va. No, the problem is this. He says, lui ha detto che voterà, is possible... Yes? Ok. He said, ha detto che voterà sì, perché sì, non ne può più del fatto di essere oppresso dal Parlamento. Gli ho detto se fa schifo, se è la monnezza, e ha detto no, non è monnezza la Gran Bretagna. Comunque, vabbè, lasciamo. Ma perché tu, perché non sono abituati, infatti mi ha guardato malissimo, non sono abituati a questo linguaggio tuo. Perché qui poi la battaglia, no, e questo è importante, cioè qui non è che fanno guerra come lì la lei, secessione, via. Qui io ho visto agli angoli delle strade il comitato del sì e del no, sì, che sì, si combattevano in punta di fioretto con grande fair play. Anch'io sono andato lì e gli ho detto: a lei fa schifo l'Inghilterra, vero? E loro mi hanno guardato come dire: no, assolutamente no, vogliamo farci i fatti nostri. Aspetta, cioè, sì, ho capito. Giovanni da Ferrara, Giovanni da Ferrara. Perché mi devi far fare queste figure barbine con un portiere in inglese, no, che non sono capace? Dai, il portiere, su, amico. È gentile. Giovanni da Ferrara, dai, su. Sei incazzato prima perché gli ho annullato la stanza. Dai. Ecco, ha chiamato uno prima. Sì, pronto? Dimmi, Giovanni, dimmi. No, c'è poco da dire, perché adesso mi sono perso l'ultimo pezzo vostro, però tanto in realtà, ascoltando la vostra trasmissione, non si perde nulla, perché parlate solo di finocchi, parlate solo di cose orribili. Cioè, sembra diventato Radio Gay, quando se c'è una categoria che fa schifo, sono i finocchi, sono i gay. Cioè, ma voi come date finocchi una gay? Scusami, Giovanni. Voi date una credibilità ad una categoria che va curata. Ha ragione Taormina quando dice va curare, cioè, voglio dire, cerchiamo di capire. Qui sembra che se non sei gay non sei più nessuno. Sembrano i normali loro e gli anormali gli eterosessuali in questa trasmissione vostra. Non è così. Cioè, no, ma scusami Giovanni. Allora, quando nella natura, se tu vedi un cane che per sbaglio va addosso a un altro cane e se sì, lo fa, maschio, sì, dici ha sbagliato. Sì, sì. Dovevo andare da una cagna e andato da un cane, lì dici che ha sbagliato. Se ma lo fa un uomo è giusto. Se lo fa un uomo è giusto invece. No, ma scusa, cioè, tu... sbagliato, cioè non se ne può più di questi qua, che secondo me sono pochissimi in realtà, che sembra che si deve parlare solo di loro, i problemi sono tutti loro. Ma ti pare normale che un bambino abbia come genitori due uomini che si inculano la sera? Ma dai, su, Giovanni. Ma non è possibile. Cioè qui non è una... la natura è una cosa seria. Hanno creato l'uomo e la donna. Ma cosa faresti? Poi uno se lo prende nel culo, ma è un altro discorso, non è una cosa normale. Ma che non sarà una cosa normale, ma succede, ma no? Ma certo che succede anche con qualcuno, ma con gli animali è normale. Se voi vedete un uomo o una donna, ma non è la stessa animale, cosa, normale, no. Ma non è la stessa cosa, scusami, Giovanni. Ma è la stessa cosa, perché contro la natura lo stesso. E contro la natura non è normale. Ha ragione Taormina, forse ha ragione Buonanno, mi pare che abbia detto anche lui una cosa del genere. Cioè non è così, è una trasgressione della mente, vanno curati, vanno messi su un'isola, tutti sull'isola a curarsi se vogliono. Cioè è una contaminazione. Ma come in un'isola? Scusa, non ho capito, ma come cioè, in un'isola? Ascolta, no? Allora, quando noi dobbiamo educare le giovani generazioni, non possiamo educarle nel senso naturale. Cioè la natura è questa, cioè l'ape fa una cosa, le farfalle fanno un'altra. Se sono stati creati, altrimenti avrebbero creato l'uomo, chiunque abbia creato la natura, diciamo, avrebbe realizzato un uomo che poteva andare con l'uomo. Ma non ha senso, no? C'è un atto contro natura, poi lo facciano pure, ma non rompano i coglioni. E le feste gay, e devi essere gay, e vanno in giro queste quattro checche che sembrano delle mezze donne, più donne delle donne. Cioè, sono inguardabili. Cioè no, non se ne può più. Capito, e voi date un risalto a queste persone come se fossero normali, come se la realtà fosse quella, come se la società fosse quella. Non è quella la realtà, non è quella la società. La società naturale sono gli uomini e le donne, non sono questi che ci vanno in curare. Ma te lo immagini? Ma che ancora? Ma non se ne può più. Cioè è una cosa veramente. Insomma, c'è una Cruciani, fate schifo. Ma come facciamo schifo? Dai, su, sì, ma che perché c'è? Voi esaltate una cosa che è contro natura. La esaltate. Vabbè. Ma senti mai, sei mai andato a vedere un gay pride? Fanno schifo, travestiti da donna. Ma perché fanno schifo? È come una festa meravigliosa. Ma l'idea di immaginare due uomini che si inculano? Ma ancora è terribile. È una cosa terribile. Vabbè, ma scusa, ma questi qua si inculeranno dentro la loro stanza, non è che si inculano all'aperto. Ma certo, tant'è vero che se uno a casa sua si fa inculare da un cane, lo faccia pure, che se ne frega a casa sua, ma non è che però viene a dire no, voglio allevare un cane, un bambino col mio cane, bisogna. Cioè, A casa sua uno può fare quello che vuole, ma non rompano i coglioni, non lo dicano neanche, chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Però qui sembra invece che se non sei gay non sei nessuno. È tutto? Ci devi dire qualcos'altro? Non ho capito, è tutto? No, adesso guarda, se dovessimo parlare della zanzara c'è altre cose da dire. Perché? Che c'è da dire? Perché voi dai, allora, il primo allora sembra diventato radio gay. Vabbè, cioè, quello l'abbiamo capito. Non ti piace Radio Gay, non ti piace, anche se vanno curati. Invece noi siamo a favore del matrimonio e dell'adozione, va bene? Va bene, ma Giovanni? Fate schifo! Cosa ti pare? Ma fai schifo tu! Ma fai schifo tu! Vergognati, fai schifo tu, vergognati! Il bambino che va a scuola con due papà che l'accompagnano. E qual è il problema? Qual è il problema? Abbiamo fatto sesso i due papà. Ma che schifo! Ma qual è il problema? Insomma, dobbiamo dare un'educazione ai giovani, dobbiamo pensare al futuro della società. Ma che futuro della società? Ma va benissimo, due. Sì, io andrei, se fossi frocio, andrei ad accompagnare mia figlia. Se metti a un certo punto impazzisco, fra due anni mi metto con un uomo. Vado ad accompagnare mia figlia a scuola con il mio compagno. Mi bacio davanti agli altri, chiaro? Ma che schifo! Ma che schifo! Speriamo che non succeda per la tua bambina! Che schifo! E gli spiego alla mia bambina, che mi sono messo con un uomo, chiaro? Bisogna ubbidire alle leggi della natura. La natura è ma costato. Quale natura? Ma non rompere i coglioni, dai, questa allora, natura, tu. Siamo, ma dove è spuntato fuori sto Giovanni? Impazzito già completamente. Che siamo, già che ci siamo, altra cosa che non sopporto della Zanzara, cosa? Che è diventata la radio degli animalisti. Ma quale animalisti? Che noi siamo ferocemente contro questi pazzi furiosi, scusa. No, vabbè, ma tu mi dai spazio sempre, parlano più loro degli altri. Ma ti pare normale che uno dica che gli animali hanno gli stessi diritti degli uomini? No, ma questo sono d'accordo con te, Giovanni. Ma calci nel culo questi vanno presi. Io vorrei che tutti gli animalisti, se vedo un animalista che uccide una zanzara, se vedo un animalista che mangia il pesce, mi incazzo, per cui c'erano su quel cazzo di orso che hanno ucciso, che uccideva a sua volta altri animali oltre a rischiare la vita delle persone. Su questo nessuno si incazza. Io oggi ho mangiato carne di cinghiale. Perché non si è incazzato nessuno che ha ucciso un cinghiale? Sì, questo, devo dire la verità, questo fortunatamente è bene. Perché sennò rovinerebbero tutta la cultura. Il pesce stasera mangia il branzino. Questo come è vero. Quanto soffre il branzino quando viene pescato. Attenzione che siamo... Questi sono razzisti, perché tendono soltanto a difendere alcuni animali e gli altri no. Io la pantegana, perché me la uccidono la pantegana? Ho visto uccidere una pantegana. Sì. Non ho sentito nessuno che si è ribellato. Penso, però su questo... E vaffanculo, sono razzisti questi, contro degli animali. Chi è che mi sta chiamando? Io con loro. Chi è che mi sta chiamando? Non ho capito, aspetta. Chi è che mi sta chiamando? Sì? Aspetta. Chi è? Oh, Viola, aspetta, ma sono in diretta alla radio, che c'è? Che è successo? Mia figlia? Ci sentiamo dopo, tesoro, dai. Dai, ci sentiamo dopo, sono in diretta alla radio. Dai, dopo, ti chiamo dopo. Non so, ho capito, è la password del wifi, tesoro. Te lo dico dopo, dai. Va bene, dopo te la dico la password del wifi. A proposito, stavo parlando di te prima, dai. 15 secondi, un attimo di pausa. Prendiamoci che c'è la pubblicità, un attimo. La password del wifi, amica mia, amore, tesoro, te la dico subito. Ormai è tutto degradato ormai. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. La password, aspettate un attimo, Giovanni, ci sei? Sì, che vuoi dire sugli animali? No, noi abbiamo attaccato gli animali come te. No, ma ho capito, ma gli dai spazio. Il fatto che tu li attacchi, in realtà vanno ignorati, perché dicono cazzate. Cioè, quando tu, un mass media così importante come la Zanzara, che l'ascoltano purtroppo, credo, 3-4 milioni di persone, dai spazio a questi finocchi di merda o questi animalisti cretini, gli dai spazio. Poi cioè uno poi deve mangiare la carne di maiale, che poverino il maiale. No, ma su questo hai ragione. Ma insomma, questi qua che hanno protestato, questi che hanno protestato per la morte della Danica, che cosa sono? Tutti imbecilli, dei cretini? Completamente, perché anche qui, perché quell'orso lì sì e gli altri no? Tutto ciò che viene ucciso, ripeto, ho mangiato carne di cinghiale, sai quanti hanno ucciso il cinghiale? Uccido anche i delfini. Il cervo, ieri ho mangiato una carne di capra, ero in Abruzzo, ho mangiato una carne di capra buonissima, ad esempio, in un posto dove hanno inventato la carne di capra. Io ho mangiato anche la carne di cane una volta, ho mangiato anche la carne di cane. No, ma voglio dire, cioè, ma è normale, cioè l'essere umano deve mangiare la carne. È diventato più intelligente, è diventato Homo sapiens da quando ha scoperto che si poteva cuocere la carne. La carne è fondamentale, la coppa. Come si fa? Se io voglio mangiare la coppa di Piacenza, la mangio la coppa piacentina. Certo, certo. Non c'è nulla a vedere, cioè che non c'è nulla di male, tanto gli animali. Parenzo, sei stato raggelato da Giovanni, che è successo? No, ma poi mi sono dicono che non vanno uccisi in modo brutale, sono d'accordo con loro. No, sono raggelato da quello che ha detto sugli omosessuali questo personaggio schifoso, aggiungo io, schifoso, che ha schifoso, detto delle... se schifoso sarà che lei che sostiene una tesi, Parenzo, schifoso sarà lei che sostiene la tesi per cui la natura deve essere completamente molestata e violentata da questi che non sono naturali, che fanno dei gesti innaturali, che si comportano in modo innaturale. Ma guarda, le cose schifose che ha detto, che molestano l'intelligenza, ma non è vero, ma non schifo, due uomini che si incurano, Parenzo, ma ancora, ma non con ancora con questo, ancora, ma schifo, ma ancora, così. Ancora. Perché sono omosessuali? Perché sono gay? Perché si incurano tra di loro. E allora fanno schifo, come si fa a dire non fanno schifo? Ciao Giovanni, a presto. È una ciao. Cosa contro la natura. Ciao Giovanni, ciao. E lei, Froce, le deve tenere sotto casa sua. Mia figlia voleva la password, non la trova adesso, non mi ricordo più. Tesoro, amore, adesso ti richiamo nell'intervallo. Non ti posso chiamare in diretta, sono qui, ma arrestano perché metto in mezzo i minori, cioè non ti posso mandare in onda. Già ho risposto così, senza pensarci. No, ma dagli, interrompi un attimo, dagli la password. Ma adesso, tra 10 minuti, quando ci sarà la pubblicità. Ha bisogno adesso la bambina, ma ti pare? Ho capito, amico mio, ma no, avrà bisogno adesso, ma io non posso. Che mi stanno chiamando qui. Sì, senatore, ciao. Ma chi è, scusa? Chi è? Una roba incredibile. Ciao incredibile. Cara, ma chi è? Ah, bravissima, io sono a Edimburgo, ci sei anche tu? Ma chi se ne frega? Cioè, Enrico da Trento. Enrico da Trento. Ah, perché io avevo questo. Dimmi. Ma ti pare normale? Io continuo a leggere. Aspetta ancora un attimo, scusa. Perché sì, no, scusami solo un secondo, perché sono al telefono con dall'altra parte, in diretta alla radio, con quel poveretto di Cruciani, quel meridionale. No, parli come in meridionale. No, lo metto in, no, è più importante parlare con te, cara, per Salvini. Ma chi è? Lo metto lui. Stai zitto, che sto parlando per una roba con la segretaria di Salvini. Scusa. Enrico da Trento, intanto. Tanto le sue cose sono. Vabbè, tu stai zitto, parla con la segretaria di Salvini. Enrico da Trento. Ma Enrico, sì. Allora, ho chiamato in merito. No, però Enrico, porca la miseria! Non è possibile collegarsi come da una stanza vuota. Dove sei collegato? Scusa. Oh, che cavolo, da viva voce. È 3 anni che trasmettiamo, anzi 8 anni che trasmettiamo. E su, dai. Hai ragione. Allora, e mi devi ammazzare tutto così, dai. Che per una volta sono d'accordo che è un buon anno, che è generalmente un cretino per riguardo alla questione del Belgio, perché sono favorevole alla reintroduzione della pena di morte per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. Vabbè, tu sei d'accordo sulla pena di morte per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. Mi dispiace dirti che il problema del sovraffollamento delle carceri si risolve in un altro modo, secondo me, solamente costruendo carceri nuove e togliendo qualche reato, eccetera, eccetera. Ma sicuramente non si risolve con la pena di morte, altrimenti dovremmo ammazzare migliaia e migliaia di persone, cose che comunque anche quelli favorevoli. Quelli dell'ergastolo non lo farei per vendetta, è sicuramente un discorso razionale. Cioè, quelli che. Una mail, gentilmente. No, ma abbassate il volume di questo cretino. Enrico, scusami, ma ti pare possibile che tu vorresti trasformare l'ergastolo, a parte che non basterebbe nemmeno quello, l'ergastolo in pena di morte? Sì. Vabbè, ma perché non? Ma chiamatemi l'ambulanza dopo credo 6 mesi che non la chiamiamo per questo cretino imbecille. Perché sei un cretino, hai capito che sei un cretino? No, non mi hai neanche lasciato parlare. No, vabbè. Ma sei un cretino, sei un. Perché uno che dice io per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri bisogna introdurre la pena di morte. È un cretino, capito? Ma ok, ma i problemi non si risolvono. Ok, cioè devi ammettere sono un cretino. Potresti anche dirlo, sono un cretino. Ma sono un cretino, va bene. Ah, dillo, comunque. Ammettilo, 2 punti. Enrico, sono un cretino. No, allora ascoltami. I problemi non Vai, fammi sentire, non mi rompere i coglioni. Fammi sentire Pino dalla Spezia, dai. Hai detto una stupidaggine, dai, basta. Mi hai fatto innervosire. Pino, la Spezia. Buonasera, volevo premettere qualcosa su quello che ha detto quel signore prima sui gay. Tutti i torti non ce li ha, se ne parla un po' troppo. Gli suggerirei di mettersi in contatto con l'associazione Hetero Pride. Dopodiché, cioè Giovanni, quello che è intervenuto prima sui gay, ha ragione. No, non ha ragione, però ha ragione che se ne parla un po' troppo, insomma, a un certo momento. Cioè anche noi ne parliamo troppo, siamo la radio dei gay. No, io non vi dico per voi, dico in genere se ne parla troppo. non dico per ma voi, che vuol dire è, se ne parla troppo? Cosa sempre vuol dire se ne parla troppo? A parte che tu che non ci ascolti sempre andresti condannato, messo in croce, crocifisso, ucciso, eccetera, capito? Giovanni da Campobasso, poi, dai. No, poi, Giovanni da Campo di, dimmi che c'è. No, dimmi. Io non ho detto il mio intervento, Dimmi, dai. Per quanto riguarda gli animali, io non sono animalista, però chi ammazza il mio cane e io lo scopro per certo, lo faccio fuori. Vabbè, punto. Ma tu sei un altro da ricoverare, cioè, un altro da ricoverare. Se qualcuno fa fuori il tuo cane, ci sono le leggi, ma che lo fai fuori? Perché come fai a farlo fuori? Spiegami, io come lo fai? Faccio fuori, io ma faccio come? Fuori, come lo fai fuori? Se lo scopro, lo faccio fuori. Se lo scopro lo faccio fuori. Ma bada pazzi, dai. Lo scopro lo faccio. Ma come fai a farlo? Cioè, uno che ti fa fuori il cane, che ne so, perché è pazzo, no? Perché viene aggredito e te lo fa fuori. Tu che cosa fai? Non so cosa farci, è così, è un destino, Non ci posso fare niente. Tesoro, perché ti arrabbi? Scusa, io te l'ho detto, la password è 15 9 15, la mia data di nascita 15 9 1966. Prova così, tesoro, prova così, dai. 15 9 senza lo zero, prova così, 15 9 15 9 1966. Devo dare la password a mia figlia, mi ha chiamato durante l'intervallo, che devo fare? Parenzo, ci sei? Ah, cucù amore, vuoi il biscottino? Allora, hai provato? Sta provando la password. Ma scusami, e poi dici a me. Vabbè, ho capito, mi ha chiamato per la password. Senatore Giarrusso, mi scusi un attimo. C'è una password con un problema di password di mia figlia. Funziona? Funziona? Ma scusa, sei da solo, non c'è la mamma? 9, 15, 9, tutto attaccato. 15, 9, 1966, capito? Senatore Giarrusso, mi scusi, voi siete esperti di password, eccetera. Quale potrebbe essere la password con la data di nascita? La mia data di nascita completa, con lo zero, come... Ma non è che 6666? No, quello è il diavolo, 6666. No. 15 15 9 15 9 1966, 1 5 9 1 5 9 1 9. Facciamo così, Viola, scusa, segnatelo su un bigliettino, 1 5 9 1 9 6 6, capito? Ciao tesoro. No, non posso aspettare, sono in diretta, non posso aspettare. Ciao, ciao tesoro. Ma siete una bella coppia comica, eh? Ah, siamo ma qui. Scusami, dimmi che c'è. No, adesso c'è una cosa. Non far sentire la voce di Giarrusso a tua figlia. No, ma perché non devo far sentire la voce? Perché chiamo il telefono azzurro. No, ma a me la voce di Giarrusso mi sta simpaticissimo, altro no, che. Cioè, non far sentire il 5 Stelle al minore. Ma no. No. No. Ma mica so questo no. Che mi piace la ragazzina, no. Questa è buona però. Questa è buona però, no? Devo dire. No, ma mica per quello, per le idee, perché potresti danneggiare la minore per sempre con le tue idee, danneggiarla per sempre. No, scusi. Speriamo. Scusi, senatore Giarrusso, buonasera, no, innanzitutto. Cittadino. Ah, cittadino, voi, scusi, cittadino Giarrusso. Scusi. Non imparate mai. No. Io spero che tua figlia impari, venga traviata le nostre idee, impari finalmente. Cioè, la democrazia. Cioè, lei sta dicendo, io mi auguro che sua figlia, quando sarà il momento, si iscriva ai 5 Stelle. Ma i 5 Stelle tra 10 anni saranno morti, finiti, Giarrusso. Già vedremo, siete quasi morti adesso, non me si sente più, non siete più in CC. Lei dice, ci vedrà a breve. Ma a non, Roma. Ma ormai siete. Vi invito a venire, se avete il coraggio di farlo, al Circo Massimo. Ma l'11 e il 12 ottobre saremo là. Vabbè, ma le adunate sono bravi tutti a farle, cioè non è quello il punto. No, non sono adunate, no. Discuteremo con i cittadini. Sì, vabbè, una nuova Woodstock, queste robe qui, ma insomma. Ma non sarà divertente, ma se non viene là a gironzolare la zanzara. Certo, ci saranno tante zanzariere, quindi non so se vi conviene. Ma scusi, passare, ho visto, però... senatore Giarrusso, ho visto una sua foto che su Facebook, con lei, con la... devi vederla anche tu, Parenzo, cioè vestito da pescatore, questi qua professionisti, con una canna da pesca. Qualcuno mi sa dire quanto tempo devo stare in forno un pesce al sale? Considerate che pesa 4, cioè lei ha pescato che cosa da 4 kg? Un pesce serra, non Michele, è un pesce serra da 4 kg. Ah, un pesce serra da 4 kg, ma se l'è mangiato tutto, cioè proprio, gli animalisti se ne fotte totalmente, diciamo la verità, Giarrusso. Ma lei è contro gli animalisti, dica la verità. Ah no, ma assolutamente no. Peraltro il pesce serra è un pesce pericoloso, purtroppo, perché è un pesce che è venuto nei nostri mari con il riscaldamento e sta danneggiando la fauna ittica locale, perché fa due cose soltanto, lei possiamo dirle o scatta il bit? Mangia e fotte, così me l'ha spiegato un biologo. E mangia tantissimo, divora tutto e attacca anche i predatori perché è territoriale e quindi sta danneggiando la nostra fauna. Cioè, non ho capito, lei mi sta dicendo che sta pescando questo pesce perché sta rovinando la fauna? Ma noi un biologo ci ha detto che mi raccomando, questi non li rilasciate perché sono micidiali. Ma lei poi se l'è fatto al forno, diciamo, dalla ma era buonissimo col l'ha sale. Preso, l'ha preso per magnasso e basta, diciamolo. Ma no, ma perché è divertente, è un hobby la pesca. E poi in questo caso diciamo è anche comunque se uno, lei non è il suo caso, Gerusso, però Parenzo, quello che diceva prima l'ascoltatore Giovanni, che è diventato un mito sulla rete nel frattempo, sugli animali ha ragione lui. Cioè, perché siamo così attaccati all'orso e poi uno pesca, ammazza ogni giorno migliaia di animali per mangiare e nessuno dice nulla? Su questo ha perfettamente ragione. A me gli animalisti mi hanno rotto veramente i coglioni, lo sai? Mi hanno veramente rotto i coglioni. Cioè, che mi hanno perseguitato per anni per alcune cose che ho detto. Io dico quello che penso e me ne fotte. Ma hai esagerato? Ma hai esagerato quando? Perché? Che cosa ho fatto? Hai mangiato il cane? Una certo, ho mangiato assoluta. Il cane per fare un servizio in Corea. Ho mangiato ma il cane. Schifo, povero cane, ma hanno ragione veramente. Ma ho capito, scusi, senatore Gerusso, abbia pazienza. Abbiamo dei livelli di abiezione. Ma perché di abiezione? Ho mangiato il cane. Ma non arriverebbe a tanto, veramente, fare le sue perversioni, guarda, il cane sicuramente non c'è. La suora c'era, l'infermiera, la poliziotta, sì, ma il cane no, però. Ma io scusi, però quello era una finta. Io l'ho mangiato sul serio, no, il cane. No, quello faceva sul serio, si sposiamo sì. Davvero, mica per finta. Sì, ragazzi. D'accordo, però era un gioco, diciamo, quello là, no? Cioè era un gioco. Cioè lei crede veramente che Berlusconi sia un magnaccia, cioè o comunque una come diceva Ghedini, com'è che ha detto, un utilizzatore finale no. Di mignotte pagate migliaia di euro al mese? No, secondo che aveva speso 20 milioni di euro in 2 anni? No, Gianrusso. Una palazzina intera di mignotte, le oggettine. Gianrusso, non parli così di uno dei soci della maggioranza, scusi, non parli così di uno degli alleati di lei. Ma è uno dei più divertenti, ma mettiamo Verdini, la massoneria, qua abbiamo l'inferno intero. Aspetti, Gianrusso, accosti le cose che ha detto. Questi sono pericolosissimi invece adesso. Però scusi Gianrusso, adesso andiamo per ordine. Cominciamo da Verdini. La senatrice Taverna, deputato Taverna, non mi ricordo che cos'è. Sì, la volevamo espellere, la povera Paoletta, per il gesto che ha fatto. Beh, insomma, però è stato scortese questa cosa qua. Cioè, prima... Ma non doveva stringere la mano a Verdini. Stavamo facendo una procedura rapida di espulsione, poi Paoletta si è scusata, gli vogliamo bene, tanto brava. No, però parliamo sul serio. Non lo fa, ha promesso che non lo fa più. Parliamo sul serio. Lei stringe... Alla Zanzara parliamo sul serio. Parliamo sul serio per 2 minuti. Lei avrebbe stretto veramente la mano a Verdini? Lei avrebbe stretto la mano a Verdini oppure no? Ma innanzitutto bisogna chiedere a Verdini se vuole stringere la mia di mano. No, ma lei lo incrocia. Ma io dubbio, dopo quello che ho detto in Senato, l'unica volta che. No, ma perché si stacca dal microfono? Ci ha degnato della sua presenza, è venuto soltanto per la sua autorizzazione a procedere. Ci ha fatto sentire la sua voce che noi in 1 anno e mezzo sconoscevamo perché non aveva mai preso la parola. E sapete che cosa ha proposto? Una cosa meravigliosa. Dopo aver minacciato tutti i colleghi della sua maggioranza, cioè i senatori del PD, toccherà anche a voi quello che sta succedendo a me. Ha proposto, ma era serio, di spendere i soldi dei cittadini, quelli del bilancio del Senato, per comprare un'apparecchiatura anti-intercettazione, perché così i nostri telefoni sarebbero stati sicuri. Ma perché si stacca ogni tanto dal telefono, Gianrusso? Che succede? Non mi stacco. Che succede? No, ogni tanto dopo un minuto cade come se lei si allontanasse dal microfono. Comunque, vabbè. No, è quando pronuncio il nome infausto di Berlusconi? No, in quel proviamo. Caso. Allora, 1, 2, 3, Berlusconi, l'avete sentito? L'abbiamo sentito. Però scusi, adesso lei al governo non c'è Berlusconi. Berlusconi sta... Come non c'è al governo? Lei dice che sta al governo direttamente. Ma se sta facendo tutto quello che era nei suoi sogni più perversi, a parte le minorenni e le oggettine. E le mignotte, come ha detto lei. Appunto. Beh, magari quello lo fa lo stesso. È molto al governo. Cioè lei dice che proprio fa parte integrante del governo, dice lei. Ma c'è, ma abbiamo un ministro della giustizia che è accerchiato da Costa e Ferri, che appena dice una cosa subito Costa dice non è vero, il ministro non lo ha pensato, lo avrà pure detto, però non lo pensava. Perché il ministro pensa quello che gli dice Costa e Ferri, ovvero i due uomini di fiducia di Berlusconi. Sì. Però scusi un attimo, lei incrocia per strada Verdini, giusto Parenzo? Facciamo questo paragone. Incrocia, esatto, facciamo sì, questa simulazione. Incrocia per strada Verdini, cosa fa? Dipende se è una via oscura. Io mi sto lento, reagisco, gli do due ceffoni, mi sembra un tipo oscuro, un tipo strano. Dico, cioè lei non gli stringe nemmeno la mano, gli dà due ceffoni subito. E se lo vedi di strada, una strada oscura, di notte ti spaventi. E in Parlamento? E in Parlamento? Sempre una faccia truce, sempre una faccia e truce. E che fa no, lei? No, no, ma siamo tutti molto cortesi. No, ma ho capito, ma lei la mano la stringerebbe a Verdini o no? Ma no, ma per carità, io ai massoni non la stringo la mano. Lei non stringerebbe la mano? No, no. E perché l'ha fatto la taverna allora? Ma infatti sono quelle cose che accadono nella vita inesplicabili, non lo sa nemmeno, era dispiaciutissima, difatti l'abbiamo perdonata perché è tanto brava e l'amiamo tanto. Però Marco, ma poi a chi prima stringe la mano e poi chiede alla rete perdonatemi. Ma certo, ma questa è una cosa gravissima, da espulsione, assolutamente. No, beh, lei scherza sull'espulsione, che c'entra? Non è questa, ma, dai. Però lei non l'avrebbe stretta la mano a Verdini, cioè lei la mano a Verdini, a uno come Verdini non la stringe. Ma lei pensa che il nostro problema è stringere la mano a Verdini? No, ma è una cosa interessante questa però. Senta, perché abbiamo visto lo show di Renzi, che c'è veramente, bisognava pagare il biglietto per le risate che ci ha fatto fare, cioè una battuta dietro l'altra, davanti a un spettacolo, cioè veramente. Allora, una pubblicità, tragedia. Poi torniamo su, lo so, ai mille giorni, lo so, tutta, vedremo quello che succederà, poi anch'io sono molto critico, però lui vuole essere misurato in mille giorni, prima vuole essere misurato in qualche mese, adesso sono diventati mille giorni. Vedremo, la taverna pare che abbia fatto un altro show tra l'altro al Senato, C'è un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, quello da chiudere subito. Fa male solo a chi non sa ridere, è la Zanzara. Io stavo rileggendo ancora questa cosa incredibile del ministro della sanità, del ministro della sanità Lorenzin, la quale scrive, se la cosa è confermata, Beatrice Lorenzin, su una rivista Tutto, una settimanale, mensile, non so che diavolo è, scrive dei consigli come fosse un medico, come fosse uno specialista, per riconoscere e combattere le smagliature. Cioè il ministro della salute, avete capito bene, il ministro della salute. Uno stile di vita sano è un consiglio anche per lei, Giarrus, evidentemente, no? Il ministro della salute che scrive su una rivista. Il governo poteva pubblicare qualcosa su Science o altre riviste di questo tipo, su Lancet, no. Che è poi all'Enset, ma comunque il mio inglese, il mio meraviglioso inglese lo sanno, siamo grillini, non è che siamo così bravi in inglese. Ma nemmeno il mio, per carità, è eccezionale, per carità, non mi cimento nemmeno. Ma in realtà potrei anche cimentarmi, ma chi se ne frega. Ha pubblicato su Tutto dei consigli. Ma farà curriculum, è una pubblicazione che verrà portata poi nelle sue futuri sviluppi. Però potrebbe servire anche a lei, se non fosse che è pieno di banalità. Uno stile di vita sano, niente alcol e fumo e un'alimentazione equilibrata associata all'attività fisica. Ma strana sta cosa. Esattamente. Poi la dieta deve essere equilibrata, ricca di acqua, proteine e antiossidanti. Beh, insomma, anche questo mi sembra un consiglio molto, molto originale. E poi prima ma di acquistare. Non era un reato l'esercizio abusivo della professione medica. Infatti, qualcuno si è già incazzato. Prima di acquistare e utilizzare un prodotto. Prima di acquistare o utilizzare un prodotto è sempre bene chiedere consiglio al vostro medico curante, che saprà scegliere quello più adatto per voi. Ma no, ma anche questa è una cosa. Ma sta leggendo un bugiardino o un'intervista? Le assicuro, è uno scritto del ministro Lorenzin sulla rivista che si chiama Tutto, è stato così pubblicato. Che sa pure scrivere, io pensavo sapesse soltanto leggere, male. È stato pubblicato Tutto da Dagospia, in cui il ministro della salute scrive queste banalità totali per chi ha problemi di smagliatura. Allora, dobbiamo intenderci. Su, ragazzi, su. Dai. Dagospia è un sito simpaticissimo. No, no, ma Dagospia pubblica l'articolo. La Lorenzin lavora per Dagospia per fargli fare un po' di lavoro. Sennò cosa potrebbe pubblicare mai il povero Dagospia? Però Parenzo, Giarrusso, voglio dire a Giarrusso una cosa, guarda. Però non ci dice dei casini che ci sono a Parma, dove il sindaco di Parma dice che bisogna cambiare modo di fare opposizione, Pizzarotti. Gianluca. Ma non ci sono Casini, ma perché pensate sempre che ci siano Casini? Ma Pizzarotti dice che bisogna cambiare il modo di fare opposizione, che avete sbagliato tutto, ormai è l'antigrillo. A partecipare a delle assemblee del movimento. No, per carità, questo no. Quante idee vengono espresse dai nostri attivisti liberamente nelle assemblee. Ma Pizzarotti senza grillo è qualcuno oppure non è nessuno? Mi dica la verità. Innanzitutto Pizzarotti è il sindaco di Parma. Ma senza grillo chi sarebbe? I cittadini senza grillo chi sarebbe? Allora, tutti noi senza grillo non ci sarebbe nemmeno Renzi. No, ma lei senza grillo che cos'è? Nessuno, sarebbe ancora un sindaco a Firenze. Ma di fatti di questo ci ringraziano i fiorentini, almeno ve lo siete portati via. Però scusi Gianrusso, lei gli italiani sono scontenti. Lei, no? Gianrusso, senza grillo che è nulla, polvere sarebbe. Un avvocato normale, sarei un avvocato di provincia che combatte le sue battaglie. Io ringrazio di fatti sempre il grande Beppe per avermi dato la possibilità di combattere in Parenzo, Pivaria, che cosa vuoi dire a Gianrusso? No, voglio dire a Gianrusso, guarda, mi fa venire in mente questo, siccome sono in Scozia, in United Kingdom, nella patria della rivoluzione, ma quella senza sangue, quella senza le teste che loro vogliono tagliare, perché Gianrusso... Ma ce l'hai il kilt, Parenzo, ce l'hai il kilt? Ce l'ho, e siccome tutti ispiri alla rivoluzione francese, al taglio delle teste che rotolano, no, terribile, io mi ispiro di più alla rivoluzione anglosassone. Senza mutande, vero? È obbligatorio. Ti piacerebbe? Una volta beccarono il principe ereditario inglese con il kilt, con le mutande, e si sono offesi moltissimo. Ti piacerebbe? Ma non è che a Gianrusso piacciono un po' gli uomini, no? No. Ma completamente, ma che orrore! Ma come che orrore? Scusa, che orrore! Parenzo col kilt e senza mutande. No, ma non è che le fanno orrore gli omosessuali, no? No, ma per carità, ho un sacco di amici carissimi. No, ma perché voi non volete, per esempio, non... orrore Parenzo nudo, che è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa, effettivamente, un'altra cosa. Però scusi un attimo, lei a che cosa costerebbe il patto tra Renzi e Berlusconi? Il patto del Nazareno, che ne so, un patto, cioè che cosa le fa venire in mente il patto tra Renzi e Berlusconi? Ma mi fa venire in mente il peggio che ci possa mai essere in politica. Tipo il patto Molotov-Ribbentrop, che ne so, una cosa del genere. Stavo per dire la stessa cosa, un patto, là era fra due dittatori, qua diciamo che è fra due che si intendono su molte cose. Diciamo che l'unico punto che non hanno in comune saranno sicuramente le mignotte minorenni, perché Renzi non mi pare che abbia questa inclinazione, per il resto si intendono su tutto. Ho visto anche sulla mafia, devo dire. Addirittura. Sì, ma quello è accusato, Renzi... Berlusconi ha avuto accuse per tanti anni, i suoi uomini sono addirittura in carcere. Ma perché non c'era Renzi? Perché sta cancellando la lotta alla mafia. Guardi, è iniziato Cancellata, dai, su, Gianrusso. Il reato di voto di scambio politico mafioso. Vabbè, ma quello già ci siamo... con l'intervento di Renzi. Ma scusi, questo accordo su... che cosa la scandalizza di questo accordo per eleggere Violante, Bruno, là, la cosa di cui parlano solo quelli al potere, la gente non gliene frega niente? Ma guarda, innanzitutto mi scandalizza che stiamo parlando di due uomini della vecchissima Prima Repubblica, due vecchi arnesi, di cui uno, Violante, è una specie di maggiordomo del potere, come l'ha descritto bene il blog di Grillo, uno che ha detto che abbiamo fatto l'accordo nel 94 per garantire le televisioni a Berlusconi, il conflitto di interessi. Ma è un uomo della sinistra, Violante, anche lei è uno più o meno di sinistra. Stavo descrivendo con queste cose il patto. No, ma ho capito, Violante, uno di sinistra, le dice che è un servo del potere. Ma lei ha capito di che patto stiamo parlando? E Bruno, vero? Invece, Donato Bruno, quello di Forza Italia? Donato Bruno, noi stiamo parlando di una persona che era, mi dicono, vicino a Previdi. Vabbè, non è che essere vicino a Previdi significa essere dei mostri, o sì? Si potrebbero offendere i mostri, andiamoci piano perché hanno una loro dignità. There's a backseat lover that's always undercover, and I talk to my daddy. Oggi Renzi ha difeso le sue scelte nella nomina dei vertici dell'ENI, indagati per corruzione internazionale, dicendo che gli avvisi di garanzia non fanno la politica industriale, e su questo ha ragione, anche se sugli avvisi di garanzia il suo partito ... E poi c'è un inizio di scontro sull'articolo 18, sulla giustizia, sia all'interno del PD, con la, diciamo, con la sinistra del PD, che con i sindacati. Tanto rumore per niente, io non so questa riforma del lavoro alla fine quanto cambierà. Molti dicono che renderà tutti più precari, magari fosse così, bisognerebbe rendere tutti precari. Sì, tutti, parli tu, tutti. Parli tu, certo, parlo io, certo. Parli tu che hai il lavoro a tempo indeterminato. Certo, ma io sono pronto a lasciarlo tra un minuto. Figurati. Certo, se tutti quanti fossero uguali, se tutti fossero uguali, certo. Tu che hai il lavoro a tempo indeterminato, sì. E poi per arrotondare, arrivare a 230.000 euro, ti fai altri lavoretti. Beh, qual è il problema? Scusa, quindi il tuo problema? Tu, e allora? Dal tuo sontuoso castello, nel quale ti sei arroccato, allora? Vai, predichi alla radio odio e stupidaggini. Ma odio che cosa? Quale odio? Ma di che stai dicendo? Odio nei confronti, odio che? Che cosa? Odio che cosa? Ma che dici? Ma che dici? Odio nei confronti di chi perde il lavoro, te ne fotti, usi termini che sono riprovevoli e che fanno nausea. Ma tu sei completamente pazzo. E non solo, e adesso dici anche viva tutti i precari, tu certo, che sei non certo, solo assolutamente. Ma perché io sono pronto, se ci fosse una riforma seria sono pronto a lasciare domani mattina. Ma non varrebbe per te, somaro d'un somaro. Vabbè, lascia perdere, tanto non capisci. Senta, Giarrusso, ma a Parma nelle provinciali pare che ci possa essere una lista unitaria tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico e Centrodestra addirittura, eh? E come no, per eleggere il sindaco di Salsomaggiore? Non credo, non lo so, non sono aggiornato di queste cose perché già abbiamo... Nonostante il divieto di Grillo, il Movimento 5 Stelle di Parma ha raggiunto un accordo con PD e Centrodestra per eleggere l'esponente del PD, Fritelli, sindaco di Salsomaggiore, alla presidenza della provincia di Parma. Sai che adesso c'è questa elezione, diciamo, mediata delle province che non sono affatto scomparse. Elezione è una bufala. Guardi, io quello che so è che abbiamo partecipato solo ad una di queste Vabbè, ma è normale che si facciano accordi col PD o no, secondo lei? Allora, mi ascolti, noi avevamo una posizione precisa sulle province, che era per l'abolizione non partecipare alle elezioni, quando ancora votavano i cittadini. Ho capito, ma questi quindi qua partecipano a queste elezioni? La posizione ufficiale del movimento è stata quella di presentarsi solo in Lombardia, nel Milanese, e solo per poter ricorrere contro questa barbarie che ha tolto il voto ai cittadini, poter impugnare e vedere di mandare alla Corte Costituzionale questa norma assurda. Vabbè, d'accordo, che praticamente ma sono d'accordo con lei. I consiglieri provinciali che ci sono ancora, non è vero che non ci sono più, sono stati soltanto ridotti un po' di numero, li fanno nominare direttamente alla politica. Sì, però voi state facendo accordi col Partito Democratico contro l'indicazione di Grillo a Parma, è vero o no? Ma lei ha mangiato pesante. No, ma lei è sicuro, c'è scritto mangiato pesante. Guardi, la prego, cambi il ristorante, lo faccia per il bene del suo intestino. Scusi, vabbè, qualcosa le è andato di traverso. Il patto Renzi-Berlusconi può essere paragonato a una delle cose più tremende della storia, cioè un patto che distruggerà il paese, il patto Molotov-Ribbentrop, sì o no? Sicuramente sì, perché Renzi è peggio di quello che appare. Non è un fenomeno nato ieri. Cioè, peggio di Berlusconi, secondo lei? Ma molto peggio. Ma come peggio di Berlusconi? Renzi ha una via da lontano. È stato preparato negli Stati Uniti d'America, dove... Stati Uniti no. Sì, è andato negli Stati Uniti a formarsi e soprattutto ha una regia di suo padre, gran maestro della massoneria, dietro, che fa venire i brividi. Noi la massoneria. Ma no così. Siamo in presenza del coacervo di tutto il peggio che si può immaginare nel nostro paese di poteri forti. Cioè, allora veramente lui è, da questo punto di vista, lei dice Berlusconi era addirittura un santo da questo punto di vista. Ma diciamo che era un frescone alla fine. Un frescone, mentre invece lì c'è proprio la trama dei poteri forti dietro Renzi. Ma qua siamo a un pericolo serio perché stanno mettendo a rischio la nostra democrazia, la attaccano. Fino a ieri il ministro Boschi, con delle frasi assurde, ha detto che il Parlamento non lavora. Sì, questa è una follia pure. No, ma guardi, è detto da un ministro che ha una larghissima maggioranza in Parlamento, di un governo che impedisce al Parlamento di lavorare, perché lei lo sa, io sono in Commissione di Giustizia, avevamo pronte le norme sulla corruzione, avevamo pronte le norme sul falso in bilancio, tutte cose Renzi che manda in Parlamento invece decreti. Sì, ma lei dice che dovete lavorare di più la Boschi, ha torto? No, la Boschi sta facendo un attacco all'istituzione del Parlamento. Ma è intelligente secondo lei? È intelligente? No, perché ripete. Ma è intelligente la Boschi o no? È intelligente o no la Boschi secondo lei? Ascolti, ripete parole che gli hanno imboccato. Appunto, è stupido, da soggetti allora. Che sono contrari alla democrazia. Perché nel Parlamento risiede la sovranità dei cittadini e ci sono, vabbè, i loro portavoce. Questi stanno cercando di chiudere le istituzioni democratiche di questo paese. Vabbè. E io l'ho messa in guardia perché l'ultimo che voleva fare del Parlamento il bivacco per i propri manipoli si è ritrovato a piazzare Loreto e a testa in giù. Beh, perché no, adesso l'unico lei... modo in cui reagiscono i popoli alla soppressione delle libertà democratiche alla fine sarà questo. Cioè, ma lei dice che rischia piazzare rischio. Renzi rischia piazzare Loreto? Rischia piazzare Loreto, ma no, chi ma... attenta alle istituzioni democratiche di un paese. Parenzo, di qualcosa a Giarrusso, poi lo lasciamo. È veramente... No, ma guarda, se Giarrusso fa l'avvocato, io sono astrofisico nucleare, la NASA mi ha appena chiamato. Ma dobbiamo chiudere qui, ragazzi, dobbiamo chiudere. Ma scusa Giarrusso, ma come ti permetti di parlare in questi temi? Ma che dici? Giarrusso, alto di 5 stelle, 5 minchie in testa. Non sapevo che lavorassi alla NASA, dove ti hanno c'hai preso? 5 minchie in testa. 5 minchie, ciao. Ciao Giarrusso, ciao, presto, ciao. 5 palle, Parenzo, vai. Questa trasmissione è assolutamente geniale. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Ciao, 5 palle, Parenzo, vai. You really got me going. You got me so I can't sleep at night. Adesso mi chiedono mi domandano di chiedere a casa se funziona il wifi, la password del wifi per mia figlia. Vabbè, mentre fai questo intanto prenoto il ristorante. No, no, allora. fermo, che adesso abbiamo uno straordinario personaggio, fermi tutti che fra poco abbiamo no, Miss... No, io prenoto il ristorante. No, non me ne frega niente, devi stare in trasmissione, Miss Trans. Excuse me? Miss Trans. No. Sì, Miss Trans. Ma basta. No, Miss Trans, Giovanni... Da... un bravissimo professore di diritto comparato... No, che no. ...che ti spiega tra poco tutte le questioni relative Giovanni al, da Campobasso, non me ne frega niente, è martedì, il referendum in Scozia è giovedì e probabilmente l'indipendenza perderà, purtroppo. Giovanni da Campobasso, dai. Si può? Dimmi. Finalmente. Dai, dimmi. Allora, tu c'hai la patente, Peppe? Sì, c'ho la patente, sì, certo. Allora che fai? Se vedi dei pedoni che non viaggiano sulle strisce pedonali, che fai? Li fai passare o li investi? Ma che vuol dire? Certo che non li investo. Tiri fuori la pistola e li spari. Ma io mica faccio il poliziotto, amico mio. No, io ti ho fatto una domanda. E mica i pedoni sono senza casco e senza in tre sul motorino. Scusami Giovanni, che paragoni fai? Io ti faccio un paragone. Ma che paragoni fai da cretino? Fai un paragone da cretino. C'hai 9 anni dopo di me e dovresti avere delle idee più chiare da ragionare. Invece c'hai le idee fuffe. E invece tu con questi paragoni che hai fatto sei un genio. Ma che genio? Tu se vedi dei pedoni che stanno sulle strisce pedonali li fai passare. Se vedi dei pedoni che non stanno sulle strisce pedonali che fai? Li investi? Ancora insisti Giovanni, non c'entra niente col posto, ma non c'entra nulla col posto di blocco e non è successo questo, non è che quelli non sono passati e quelli hanno sparato subito come farebbero in altri paesi. No, non si può andare. Ha commesso un omicidio. Sì, vedremo se ha commesso un omicidio. Ha commesso un omicidio, allora Gabobo che va in giro con... Ma che c'entra Gabobo? Come che c'è? Ma che cazzo dici? Ma quanto hai bevuto stasera, Giovanni? Quanto ma hai bevuto? Ma che cazzo ha bevuto? Tu tagliati le vene, fai prima. Sì, vabbè, ma da dove parli tu, scusa, da Campobasso? Io parlo da Campobasso, sì, in piazza Campobasso, sul corso di Campobasso. Cioè, tu sei seduto a un bar, però, davanti al bar. Hai già bevuto 2-3 bianchetti, ma che hai fatto? Ma non bevo, cretino. Ti sei fatto 2-3 bianchetti, dai. Su, dillo, di la verità. Ma che cazzo di bianchetti mi devo fare? 2-3 bianchettini te li sei fatti, dai. Tu sei fuso, tu c'hai il cervello fuso. Ma io ho il cervello lucidissimo in questo caso, guarda, no, ti assicuro, lucidissimo. Il cervello fuso, perché tu hai fatto due paragoni. Il pistone quando non passa più l'olio si fonde. Ma guarda. I paragoni che hai fatto, i paragoni. Un altro amico tuo che c'hai lì a fianco, chissà dove cazzo va girando. Ci avete due cervelli fusi. No, è in Scozia a lavorare, amico mio. Tu resta a Campobasso a farti i bianchetti al bar, ma quali bianchetti? Tu ti devi fare le punture. Di punture di che? Sul braccio, le dove? Punture di risanamento del cervello. Giovanni da Campobasso. Hai capito? Beppe Cruciano. Vai da uno specialista, se non sai dove andare ti mando io da uno specialista, ti fa delle belle punture e ti rimette a posto la tua scatola cranica, perché la tua scatola cranica è distintiva da tutti i punti di vista. In che senso distintiva? Scusa, in che senso distintiva? Che non sono collegati. Non sono collegati. I fili al tuo cervello non sono collegati. Tu dici delle cazzate enormi, una continuazione. Tu sei pagato per dire cazzate, per dire stupidaggini. Ti rode questa cosa qua? Io sono pagato per dire cazzate? No, affatto, Cruciano. No, ci mancherebbe altro. Ciao amore, ciao tesoro, ti amo. Ma che tesoro, ma vaffanculo. Ti amo, ti do un bacio in bocca, dai, ti do un bacio in bocca. Ti piacciono i baci in bocca? Tu sento, ma dallo un bacio a me. Dove? Dove? Alla parte anteriore. Dove? Al centro vita. No, ma ti do un bacio forte in bocca, capito? In bocca. No. Che non no, ti piacciono gli omosessuali? Non ti piacciono gli omosessuali? A me mi piace solo le labbra verticali. E che, mamma mia, gli piacciono le labbra verticali a Giovanni da Campobasso, capito? Invece se uno ti dà un bacino sulla bocca, cosa può succedere, Giovanni? Cosa può succedere? Però, non deludere. Ah, ti fa schifo subito. Però, il bacio di un uomo ti fa schifo, il bacio sulla guancia. Certo, di certo, ma mica sono ricchione io, come te. Ma cosa pazzesca, Giovanni da Campobasso, sei un mito, ti bacio, ti adoro, ciao. Piacere qui in questo programma chiamasi La Zanzara, che secondo Parenzo è diventato una cloaca, ma io me ne fotto di quello che dice Parenzo, me ne fotto, giusto David? Beh, una cloaca, ci sono dei momenti in cui è diventato ancora ma tu taci in questi momenti, taci, stai zitto, è meglio un gabinetto pubblico. Sì, certo, ma il gabinetto, invece io sono molto contento di ospitare una persona che ha vinto un concorso importantissimo, altro che Miss Italia. Tra l'altro è molto più bella di Miss Italia, ma nettamente più bella di Miss Italia, ma non c'è proprio paragone. Alessia Cinquegrana, Miss Trans 2014, ciao, come stai? Buonasera a tutti, tutto bene, a voi come va? Ciao Alessia, come stai? Hai una voce bellissima, lo sai? Diciamo, dai. No, bellissima. Dimmi la verità, Alessia, so che sei molto emozionata perché non sei abituata a parlare, eccetera. Sì, bravo. Dove sei stata eletta, Miss Trans? Sono stata eletta a Napoli, in via Diaz. Ma scusa, perché non c'è quel concorso che è a Coso, là in Toscana? Sì, va bene, il concorso è partito da là, però quest'anno la selezione l'hanno fatta a Napoli. Ah, la selezione l'hanno fatta a Napoli. Comunque, tu sei Miss Trans Italia, diciamo la verità. Sì, sono nel 2014. Quanti anni hai? Quanti anni hai? 27 anni. 27 anni, ma appena compiuti. Ma tu comunque guarda che dalle foto sei molto, ti senti più bella di Miss Italia, diciamola tutta, dai. No, dai, questo ma come no? Come non no? C'è competizione. Portamento me lo gioco, però, dai. Ma non solo il portamento, ma sei proprio più bella, sei più sexy, dai, ma l'hai visto? No, vabbè. Sì, sei più sexy, dai, su. Ma questo fammelo giudicare a me, sei più sexy. Va bene, è una tua scelta, una cosa della tua considerazione. Assolutamente. Parenzo, hai visto il paragone tra Miss Italia e Miss Trans? It's possible to see here in Google Miss Trans Italy 2000. Aspetti, che sono qui col signore qui del. Sì, fai su. No, Google. Io faccio sì un programma politico. Mosquito is not a politics program, but something. No, Google, eccolo qua. Miss Trans, questo è pazzo. Gli ho detto che facevo un programma televisivo politico. Questo gli faccio vedere i trans. Dunque, vediamo. Vabbè, perché che male c'è? Non ho capito. Gli ho detto che ero giornalista, tutto. Cioè, ma che c'è? Che vuol dire? Non possiamo. Ti guardo i pornazzi nel cose. Ma tu sei un'idea malata. Cioè, un'idea malata. Non è che. Ma è una cosa incredibile. Sto vedendo. Ah, però. Ho capito. Beh, ho bellissima ragazza, diciamo la verità. Signora Alessia Cinquegrana, anche il cognome è meraviglioso, Cinquegrana. Beh no, colà. Ma mi stava Cinquegrana. Ci ha detto al telefono la Alessia che insomma in famiglia, diciamo la verità, non è che le cose siano andate proprio benissimo. Ho capito. O sbaglio? No, questo è vero, sì, questo è vero. Perché è tuo padre che si è appena saputo che tu insomma avevi certe tendenze, si è incazzato subito, che ha fatto? No, beh, io l'ho perso già dal divorzio dei miei genitori a 11 anni. Però 11 anni. Cioè non sei stato, non sei stata accettata facilmente, diciamo la verità, in famiglia. No, il divorzio poi lo vedevo un po', ma poi la mia scelta di diventare trans non mi ha accettata più, non l'ho visto proprio più. Ma l'operazione l'hai fatta o no? O hai intenzione di... Devo essere sincera? No. Non ancora. Non ancora. Un altro annetto. Cioè c'hai ancora l'organo genitale maschile. Bravo, sì, lo devi proprio specificare, diciamo. No, ma ecco, per spiegare così, per carità, eccetera. Ma è una cosa la cosa che vorrei capire ogni tanto, una cosa che veramente per chi vuole fare l'operazione è una cosa veramente fastidiosa, questa cosa qua dell'organo genitale maschile. Sì, dicono che tutti è fastidioso, però se te la senti all'interno è una cosa che vuoi, non pensi al fastidio. No, dicevo, è fastidioso averlo, no? Cioè avere, tenere questo, cioè proprio una cosa che tu rifiuti, cioè tu rifiuti. Sì, diciamo sì. Che la vuoi fare a tutti i costi questa operazione, quando la farai? Perché se uno si sente donna, credo un altro annetto, dai. Senti, mi dicevano una cosa di cui tu non parli volentieri, che però bisogna, ogni tanto bisogna dire, cioè tu in un momento della tua vita hai fatto la prostituta, diciamola tutta. No, questa no. Beh sì, così mi hanno detto, mi hanno riferito hai battuto, come si dice, o no? Ma guarda che non c'è niente di strano, Alessia. Cioè io sono anche io sono, ma no, non hanno sbagliato, dai, su, lo puoi dire tranquillamente. Hai avuto un piccolo periodo, ma non si chiama prostituta, ma si chiama escort. Quanto hai fatto, un anno? No, un mesetto, diciamo così. Diciamo un mesetto, va. Mettiamola così, un mesetto. Sì. Mettiamola. Comunque sono sempre una ex ballerina e ne vengo dalla danza. Certo, ma perché a un certo punto hai deciso di fare la escort? No, perché era un momento di depressione, non stavo più bene e mi sono data. Non è che uno fa la escort perché è depresso. Vabbè, comunque. Non stavo bene psicologicamente. Non avevi bisogno di soldi, non c'avevi lavoro, ci sono tanti motivi. Dovrebbe essere difficile. Ma come mai vuoi accentuare questa cosa? No, ma non lo scoppio. No, posso dire alla signora, volevo dire questo, che io capisco il suo dramma, perché può essere. È difficile anche per i genitori accettare sta cosa, effettivamente. Adesso non è per fare il moralista. No, ma certo che è difficile accettare. Io considero anche la prostituzione, considero il fatto di prostituirsi un lavoro come un altro. No, ma che perché tu sei comunque una persona che si sa che è un po'. Cosa? Perché io penso perché penso che la prostituzione sia un lavoro come un altro. Io penso che sia un lavoro assolutamente degno. Ma molte lo fanno però perché sono l'unico lavoro che riescono a fare, perché questo è il dramma, no? Poi quelle che lo fanno perché gli piace, benissimo, ma come tu sai ci sono persone che non hanno alternative, fanno quello perché dicono così guadagniamo di più, così, ma è un dramma quello. No, certo, come la vede lei, signora? Come la vedi tu, Alessio? Come la vede Parenzo? Come ha detto lui. Lo so. Ma non è che è moralista, digli sei un trans moralista. Ma è vero che sei, Alessia, è vero che sei contro le adozioni gay? Così ho letto in un'intervista al giornale. No, tesoro, non è che sono contro le adozioni gay, sono io che mi sento di completarmi se sarà e poi adottare un bambino. Però che il bambino deve crescere, tra due uomini o due lesbiche, quella che sia. L'importante è che ci sia l'amore. Però io ho detto ieri in un'altra intervista che io preferisco personalmente di non adottare finché che non mi completo. E non accetto io da gay prendere un bambino, adottare un bambino. Cioè per te è sbagliato che due omosessuali prendano un uomo e un uomo, no, una donna? No. Tu non lo faresti però? Io non lo farei, è una mia scelta tradizionale che scelgo, però che per me... Ognuno ha la sua scelta, condivido le loro scelte, ognuno fa come vuole. Ma a te chi ti piace più, l'uomo o la donna, diciamo, l'uomo? No, amore, mi piace l'uomo, come la vedi, così femminile, così bella, che faccio, mi piace la donna? No, hai ragione, anche te vuoi... Volevo la donna, non mi poteva mancare, ero bellissimo da uomo. Eri bellissimo pure da uomo? Sì, così dicevano tutti. Comunque sei bellissima anche da donna, devo dire la verità, cioè grazie. Il viso è bellissimo, poi dal vivo poi uno che ne sai, cioè tutto può... Sono più carina dal vivo, dicono. Addirittura. Una cosa pazzesca. Parenzo, io voglio la Pascale, la conosci la Pascale? Ti piace quello che dice la Pascale a favore delle coppie gay, anche dei trans, credo qualche volta ha difeso dei diritti, eccetera. Ti dico la verità, io non è che seguo molto la politica, non te ne frega niente. Sì, ti dico la verità. Renzi, ti piace o non ti piace? Non sono un amante di televisione, seguo poco, però rispetto a quello che dicono e condivido. Cioè la Pascale, sai chi è o no? mi stai parlando di un mondo gay, no? No, ma come del mondo gay? Beh, no. Non ti ho capito. La Pascale, Francesca Pascale, sai chi è? La politica, stai parlando di politica. Di politica, Francesca Pascale, beh, al di là della politica, sai chi è Francesca Pascale, immagino, no? No, tesoro. No, ma lo sai che hai ragione, hai ragione tu, alla fine, Parenzo, noi ci facciamo un mondo, uno dovrebbe saperlo, la fidanzata di Berlusconi, no? La fidanzata di il mio amico Elia, l'operatore. Tu, scusa, di che hai votato alle ultime elezioni, Alessia? Berlusconi. Berlusconi ha votato, eh. Ecco, la compagna di Berlusconi, la compagna di Berlusconi è Francesca Pascale, grande difensore del una donna che difende i diritti dei gay, eccetera. Francesca Pascale è napoletana come te, tu dove sei esattamente? Sono di Aversa. Aversa, Aversa città. Vabbè, come no, provincia certo. Provincia di Caserta. Provincia di Caserta, Senti, vabbè. Allora se ci dovevo lasciare, voglio fare dei saluti, posso? Beh, adesso non è che siamo a radio Bubù qua, cioè, vabbè, dai, voglio salutare almeno la chi? Regina Satariano, l'organizzatrice. La regina? Come si chiama la regina? Satariano. Satariano? Sì, è la regina, la mitica Miss Italia da 22 anni. Miss Italia Trans. È la presentatrice del concorso ufficiale, sì. La signora Stefania Zambrano. Stefania Zambrano, va bene, ti abbraccio, ciao. Fortissimo, grande, un grande. Bacio, ciao, Miss Italia Trans, una donna bellissima, straordinaria, che farà l'operazione, però sai che sono meno affascinanti trans senza lo sai, no Alessia? Lo so, forse pure a te ti piace così, vero? No, mai andato, guarda, non ho queste cose. Ah, non ci credo, ti dico la verità. Ti giuro, mai. Non ci credo proprio, ti mi posso... dispiace, ma non ci credo. Ma no, ma perché questa cosa qua? Ti posso non ci credo, oramai hanno provato tutti questa cosa. Ciao, Parenzo, due provato? Ma assolutamente no. Assolutamente. Ci sentiamo domani, io nemmeno, però devo dire, ne ho provate tante, questo no. 18:30, ve lo assicuro, ve lo giuro, non sono mai andato. Però che palpe per questi froci. Voi siete Radio Gay, non siete Radio 24. Questo è un buon titolo. Questo è Radio Gay. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Tu ti devi fare le punture di risanamento del cervello. Radio 24, la passione si sente.